30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. A Bruxelles, sede delle principali istituzioni comunitarie e centro nevralgico dell'Unione Europea, operano secondo le statistiche circa 2500 lobby che giocano un ruolo fondamentale all'interno della procedura legislativa comunitaria, a sua volta capace di influenzare la vita di 500 milioni di europei in 27 paesi diversi, eppure si tratta di un mondo ancora in gran parte sconosciuto. Ancora buonasera da Gigi Donelli. Questa sera andiamo a Bruxelles e parliamo di lobby. Questa sera c'è chi ci aiuta a capire meglio cosa c'è dietro questo termine, quali meccanismi si costruiscono intorno a queste attività. Allora io saluto e ringrazio per essere con noi Matteo Lazzarini, buonasera. Buonasera. Matteo Lazzarini è segretario generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana. Esatto. Vive ormai da un ventennio scarso, possiamo dire, a Bruxelles, è italiano, quindi veneziano, se non sbaglio. Esatto. Insomma, che cos'è il lobbista? Ma innanzitutto questa parola credo abbia un'accezione abbastanza negativa nella lingua italiana e anche nella concezione che noi italiani abbiamo di lobby, lobbismo. Pensiamo sia una cosa sporca, al limite tra lecito e l'illecito. Una lobby di potere, espressione tipica, che messe insieme questi due termini sono un po'... Sì, lobby e potere, si immaginano queste persone vestite di grigio con la valigetta di cuoio che sfilano banconote sotto il tavolo, e se a questa immagine associamo quella di Bruxelles, che anche secondo me è un'immagine non così positiva in Italia, diciamo che abbiamo fatto un minestrone difficilmente digeribile. Siamo partiti con il piede giusto, come dire, ironicamente. Sì, ma in particolare quello che sciocca a noi europei, italiani che viviamo a Bruxelles, ma anche agli altri, è effettivamente questa immagine così negativa a Bruxelles. Pensiamo in Italia che sia popolata da questi personaggi grigi, eurocrati, burocrati, euroburocrati, tecnocrati, che mescolano il vino bianco e il vino rosso per fare il rosato, che ci fanno mangiare il cioccolato senza cacao e che gli stati succubi non possono che sottostare a quello che Bruxelles dice. E del resto è vero che è nel linguaggio corrente utilizzare in Italia Bruxelles ci ha imposto questa cosa, certo. Oppure Bruxelles ha detto che non possiamo che fare quello che Bruxelles dice, come se Bruxelles fosse una cosa altra da noi, come se Bruxelles fosse un concetto astratto. Qual è il lavoro quotidiano? Quindi cosa sono i lobbisti? Dunque sì, i lobbisti sono i portatori di interesse. Si stima che a Bruxelles ci siano tra le 2.000 e 2.500 lobby, con 15.000 persone che lavorino a tempo pieno su questo settore. Ovviamente quando c'è da decidere su un tema, pensiamo alla chimica, ovviamente la Commissione, il Parlamento e anche il Consiglio, che sono i tre principali organi appunto decisionali della Commissione e dell'Unione Europea, non possono che tenere conto delle posizioni delle industrie chimiche da un lato, ma anche delle organizzazioni non governative, dei sindacati eccetera, e li consultano regolarmente, sono invitati a partecipare alla costruzione di questa legge europea che deve trovare insomma uno sbocco concreto. Il lobbista in un certo senso, e lo metto tra virgolette, assiste anche i funzionari europei, gli assistenti parlamentari, il consiglio degli europarlamentari, e lo fa non nascondendosi ma alla luce del sole. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel settore delle lobby, prendiamo per esempio il Parlamento, tutti coloro che frequentano il Parlamento sono identificati da un badge, da un cartellino che viene portato al collo di un colore diverso, a seconda del colore. Io so se davanti a me ho un lobbista, un europarlamentare, uno stagiaire, un giornalista, e è obbligatorio portare questo cartellino. Dunque si sa chi sono i lobbisti, siamo, perché anch'io ne faccio parte, registrati in un registro pubblico, facilmente consultabile su internet, perché qui è ritenuta una cosa veramente normale. Certo, possono capitare degli incidenti come è successo che dei giornalisti inglesi sono andati a corrompere per fare la notizia degli europarlamentari, allora dicono ecco vedete che le lobby sono sporche e fanno cose non corrette, in realtà è il parlamentare che è corrotto, non è il sistema delle lobby che è messo in discussione. Giornalisti che corrompono lobbisti per mettere in difficoltà parlamentari. Sembrano, siamo già entrati un po' in fondo nella sostanza di un palazzo che è molto complesso. A proposito, Matteo Lazzarini ha appena pubblicato per Mursia Eurolobbisti, come orientarsi a Bruxelles tra lobby e istituzioni europee. Ve lo segnalo perché naturalmente avrete magari interesse ad approfondire questo tema. Lei parla, a proposito di struttura delle lobby, in estrema sintesi, di lobby semplice, lobby articolata, ma anche di lobby inutile. Sì, esattamente. Beh, anche qui un po' un mito da sfatare è pensare a queste lobby che siano in grattacieli e che vi lavorino migliaia di persone. In realtà le grandi lobby, quelle che impiegano più di 100 persone, sono appena poco più che una ventina. La grande maggioranza delle lobby sono le lobby piccole, le lobby semplici, un direttore, un assistente, una segretaria, uno stagiaire e fanno lobby e portano gli interessi di un gruppo che può essere non soltanto degli industriali. Una delle lobby più potenti a Bruxelles sono le organizzazioni non governative, le ONG, che non vivono di aria, vivono anche di finanziamenti europei. Le lobby semplici sono le lobby inutili, sono quei lobbisti che arrivano un po' per caso, e ce ne sono molti anche italiani che pensano di venire qui e farsi consigliare la persona giusta da contattare perché si conosce, che ci può aiutare, eccetera, eccetera. Si accorgono che Bruxelles è una città atipica anche dove le relazioni sono diverse dalla City di Londra, che Londra è una città internazionale, Bruxelles anche, ovviamente con molte meno persone, però qui effettivamente si ha a che fare con il greco, il lettone, il cipriota, il portoghese e non solo con gli inglesi, i francesi e i tedeschi. Dunque in questa città abbastanza babelica dove si parla inglese, francese, meno l'italiano, si scoprono delle dimensioni veramente uniche e atipiche. Bruxelles è la città al mondo con il più alto numero di lobbisti e anche il più alto numero di stagiaire. Lobbisti e stagiaire. A proposito di lobbisti su due sponde dell'Atlantico, abbiamo citato diciamo il modello americano, Stati Uniti e Canada da una parte, Bruxelles dall'altra. Lei ci ha già descritto la differenza, una delle differenze fondamentali è la ben maggiore complessità delle o quantomeno in termini di provenienza delle persone che sono a Bruxelles, ma qual è la differenza principale tra questi due sistemi? Ma diciamo che a livello di concezione della lobby, cioè qui ci può essere la piccola associazione culturale che ha diritto di essere ascoltata dalla Commissione Europea. La Commissione Europea per esempio adesso sta riflettendo su un nuovo programma europeo nel settore della formazione e sta consultando, sta chiamando i lobbisti iscritti presso il registro della Commissione ad esprimere un parere su alcune piste di lavoro. Dunque anche la piccola associazione che è iscritta al registro dei lobbisti si esprime e viene ascoltata. Anche noi, per esempio, come Camera di Commercio siamo stati chiamati dalla Commissione a spiegare il nostro punto di vista sul legame tra formazione e imprese. Abbiamo anche svolto una ricerca per conto della Commissione su come un certo tipo di formazione veniva percepita dalle imprese, eccetera. E, è la costruzione della casa comune, è la costruzione dell'Europa. L'Europa non è costruita da il Presidente della Commissione Barroso che si sveglia una mattina e vuole fare una direttiva. La casa comune europea, l'Unione Europea, l'approfondimento, l'integrazione europea è costruita dagli Stati, dagli europarlamentari, dalla Commissione e anche dalla società civile e anche dalle lobby. 30 minuti in cronaca. Rieccoci insieme questa sera su Radio 24. Il nostro ospite è Matteo Lazzarini. Eurolobbisti è il volume che ha appena pubblicato, una vera e propria guida per come orientarsi naturalmente a Bruxelles tra lobby e istituzioni europee. Lazzarini, lei diceva che tra le lobby davvero potenti c'è quella delle ONG. Ah, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Certamente è vero che la più grande lobby è la lobby delle industrie chimiche, ha un peso molto rilevante, però l'abbiamo visto che nei regolamenti, le cosiddette leggi europee, hanno altrettanto peso il mondo delle organizzazioni non governative e anche delle altre lobby. Le ONG, anche lì a Bruxelles, esercitano come altre organizzazioni un'azione di lobby, con la differenza che alcune sono addirittura finanziate dalla Commissione europea per fare lobby. La Commissione europea dice voglio mettere in grado tutti i settori imprenditoriali, della società civile, di esprimere un parere, e ovviamente una lobby senza soldi per farla funzionare appunto non va avanti. Le lobby sono divise in 8 settori, dalla cultura, l'educazione, la cooperazione allo sviluppo, i diritti umani, la promozione sociale, la lobby delle donne che è fortissima, e hanno avuto questa idea nel 2002 di creare un gruppo di contatto, cioè una persona fisica che riunisce tutte le lobby presenti a Bruxelles, le lobby, le ONG presenti a Bruxelles. E sono molto molto molto importanti, c'è questo coordinatore unico che appunto coordina questi 8 gruppi che rappresentano decine di milioni di associati in tutta Europa, e a loro volta sono associazioni di altre ONG presenti a livello nazionale oppure presenti in tutta Europa, insomma. Ecco, i deputati naturalmente al Parlamento a Strasburgo, ma i funzionari politici manovrano le lobby o per lo più si fanno manovrare dalle lobby? Allora, più che manovrare, prendiamo... Cioè, vorrei usarlo in senso neutro, non è un lato negativo, è laico come... Ma insomma... Se io chiedessi agli ascoltatori perché europarlamentari hanno votato le ultime elezioni, oppure quali sono gli europarlamentari eletti nella loro circoscrizione elettorale, pochi saprebbero rispondere. Assolutamente. In Italia non si fa campagna elettorale per le elezioni europee, non serve... In Italia si sa poco di quello che i nostri europarlamentari fanno. L'europarlamentare quando arriva a Bruxelles si trova in un mondo strano, perché insomma letteralmente arriva, gli mettono in mano una guida e un po' si arrangia, ci cerca l'ufficio e dipende un po' dai propri assistenti all'inizio, che magari sono alla seconda, alla terza legislatura e conoscono perfettamente il meccanismo delle procedure, degli atti, gli atti comunitari. E l'europarlamentare dipende, tra virgolette, sempre un po' dai lobbisti, perché a volte sono i lobbisti stessi che scrivono gli emendamenti, li presentano l'europarlamentare. Ed è un gioco a somma positiva, nel senso che l'europarlamentare ovviamente non è che firma così con gli occhi bendati gli emendamenti, però se vuole fare qualche cosa per il proprio territorio, se vuole diciamo portare avanti un'idea, un'iniziativa, eccetera, ascolta certamente sia il proprio territorio che le lobby nel settore appunto di interesse e condivide con loro, con le lobby, alcune priorità. I lobbisti non chiedono nulla all'europarlamentare, propongono un gioco a somma positiva. L'europarlamentare potrà vantarsi di aver diciamo influenzato o comunque cambiato il corso di un regolamento oppure di una direttiva, e il lobbista ha in tasca comunque un emendamento che potrà poi essere o no approvato. Però la realtà non è così semplice, nel senso che il lobbista vive la lobby in senso pieno, cioè il lobbista lavora a diversi livelli, non solo con gli europarlamentari, con il Consiglio, lavora anche con la Commissione. Si può fare lobby già dall'inizio, la Commissione vuole proporre una direttiva o un regolamento, io posso agire già dall'inizio e cercare di orientarla già dall'inizio. Più avanti vado, meno possibilità ci sono per andare a cambiare o influenzare le decisioni. Ecco, Matteo Lazzarini, lo ricordo, è segretario generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana, da 20 anni a Bruxelles, si occupa di servizi alle imprese, di consulenza sui programmi e gli appalti europei. Una domanda: c'è qualche paese che dimostra una vera e propria, diciamo, capacità da fuori classe nel gestire il lavoro delle lobby, e come sono messi gli italiani? Beh, la Germania è molto strutturata. Loro hanno capito che quando il 60 o il 70% della legislazione nazionale dipende da quello che viene deciso a Bruxelles, si capisce che più di metà delle leggi tedesche o italiane sono scritte qua. Ecco che il regolamento REACH, è un regolamento che ha imposto un certo tipo di registrazione di sostanze chimiche, eccetera, eccetera, molto importante di qualche anno fa, che ha cambiato completamente il modo di acquistare sostanze chimiche, eccetera. Lì è stata una partita tutta tedesca, perché i lobbisti erano tedeschi, i funzionari europei che se ne occupavano erano tedeschi, gli europarlamentari più coinvolti erano tedeschi, e lì ci siamo lasciati portare con fiducia in questa battaglia che si è consumata molto molto in Germania. I lobbisti italiani purtroppo riflettono quello che è la nostra realtà, lo scarso interesse per Bruxelles. Devo dire però che le regioni che sono presenti qui, tutte le regioni hanno una sede a Bruxelles, lavorano alcune in modo molto intenso. Insomma, sono più vivaci le regioni. Sì, sono più vivaci, ma non fanno proprio un sistema Italia. Le regioni portano avanti gli interessi regionali. Però, per esempio, pochi sanno che la provincia di Trento, la provincia di Bolzano condividono una sede che è stata acquistata con il Tirolo austriaco. Fanno sistema di territorio, quindi, in una regione. Ecco, Venezia Giulia ospita le province della Slovenia e della Croazia. Ancora una volta, quindi, relazioni transfrontaliere. Assolutamente, il Piemonte lavora molto con le regioni francesi. Ecco, e quindi abbiamo coperto l'arco alpino. In conclusione, le vorrei chiedere anche un'ultima cosa, dottor Lazzarini. Lei conclude il suo libro che ho citato, che è stato appena pubblicato, dicendo, puntualizziamo subito, a Bruxelles le lingue amministrative ufficiali sono il francese e l'olandese. Queste sono le prime righe del capitolo intitolato Creare la propria lobby a Bruxelles. Questo mi interessa. Come creo la mia lobby a Bruxelles? Beh, creare una lobby è facilissimo, è veramente facile, anche poco costoso. Con 150 euro uno può fondare un'associazione senza scopo di lucro, oppure può aprire a 0 euro un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. La legge belga è molto flessibile. La società Lazzarini & Company, con sede in Italia, potrebbe aprire un ufficio di rappresentanza a Bruxelles. E come tale, che benefici ottengo? Di potermi, una volta fatto questo, che benefici ottengo? Cioè, ho un cartellino che mi permette di essere presente in alcuni ambiti? Innanzitutto prendo un ufficio di rappresentanza o un ufficio a Bruxelles ufficialmente, posso mettere una carta intestata nel biglietto da visita, sono nella capitale europea, posso accedere, qualora io poi ci sia fisicamente, alle istituzioni europee, che sono molto accessibili e molto aperte. Ecco, io non voglio difendere le istituzioni, però quando chiediamo un appuntamento al Parlamento, alla Commissione, basta una telefonata e il giorno dopo due giorni si ha un appuntamento, voglio dire, c'è molta disponibilità. È vero che essendo a Bruxelles rispetto all'Italia o ad un altro paese, le istituzioni sono veramente accessibili, e noi che ci viviamo qui da diversi anni, alla fine ci conosciamo un po' tutti, magari andiamo anche a giocare a pallone alla domenica con quelli che sono i funzionari o anche i lobbisti, non è che non è che la lobby si faccia per amicizia, però è importante curare la parte della comunicazione. A Bruxelles ogni sera ci sono eventi, conferenze, seminari, a volte 2, 3, 4 lo stesso giorno, alla stessa ora, e noi dobbiamo essere presenti comunque a tutti. Il vantaggio di essere a Bruxelles è quello di poter vivere, respirare effettivamente l'area europea ed entrare in meccanismi che è difficile da spiegare. Questo è il problema più grande che abbiamo noi e che hanno anche le sedi regionali nostre, è quello di poter far capire un linguaggio diverso, ed è difficile da spiegare perché chi non vive qui non percepisce appieno l'importanza di essere qui e quali sono veramente i meccanismi. Questa è la più grande difficoltà, parlare lo stesso linguaggio che si parla a Bruxelles. Lì ci sono delle buone pratiche delle regioni, di Confindustria, dell'Unione Camere Nazionale, che stanno seguendo un percorso di avvicinamento dell'Italia, degli italiani, dell'industria, delle Camere di Commercio a Bruxelles, e siamo sulla buona strada. Grazie a Matteo Lazzarini, lo ricordo, Eurolobbisti, come orientarsi a Bruxelles tra lobby e istituzioni europee, peraltro in coda, l'appendici, leggo proprio, ci sono numeri, contatti, insomma un manuale molto pratico per conoscere un aspetto di questa nostra Europa poco conosciuto, lo ricordiamo e lo leggo proprio dalla quarta di copertina del volume che ho in mano, circa 2500 lobby che giocano un ruolo fondamentale all'interno della procedura legislativa comunitaria, una organizzazione a sua volta capace di influenzare la vita di 500 milioni di europei in 27 paesi diversi. Bene, abbiamo concluso naturalmente l'appuntamento con 30 minuti in cronaca e per la prossima settimana. Un ottimo fine settimana a tutti.